poi metto al titolo Quieta e ardente, viaggio dal centro della terra. Ci vedo. Sì. Mi ritrovo qui, mi ritrovo qui, so dove andare, come fare, do la mia pelle, faccio ciò che dico, sono una donna giusta, ho un fragile scatenato, nel mio andare ho incollato il passato, leggo il futuro alle pietre, anche il tuo. Ho un bagaglio di chiavi e bandiere, un impero di ricordi che non dipendono dalla volontà. Nella geografia che porto tatuata sotto la pianta dei piedi, studio l'aldilà terrestre del distendersi delle vene e delle arterie. Seguo le vie del sangue, dall'ignoto materno, nel corpo di roccia mio, radice di faggio, della terra pugno e figlia e madre, madre del viaggio. Strappati all'ombra dei baratri, rimano gli echi, mentre il sangue dirama in un disegno preciso, preparato dalla sapienza della materia per me, forma imprevista e incolta nell'interno intoccato. Ciò che chiamo terra è solo l'attrito, la resistenza al moto degli strati poggia su me e sta inquiete mentre scorrono le istruzioni per il respiro. Stiamo all'ombra del gigante, nel mistero delle combinazioni corpuscolari e ondulatorie, i passi così risoluti rombano come peccati inevitabili per sentire il pieno e la forza, prodotta dai corpi delle zolle che strisciano l'uno sull'altro. Particelle invisibili trasportano memoria dell'origine e del funzionamento senza che la materia se ne accorga. Nella costellazione minerale nasce l'aria a questa profondità, il respiro del pianeta sconosciuto all'altitudine. Il sotterraneo pneumatico muove a me insieme. I suoi amori nel vestirmi d'oro. Ricopre di pietre parlanti. Parla la lingua dei diamanti. Dice della forza che è niente. Dice di Dio capovolto. Dice di un Dio capovolto dalle fauci spalancate. Dice la fluidità, il mentre e la compressione. Dice la tua brevità. Equilibrio è il Dio. Compassione. Raccoglie molte fonti. Dice un suono dove sempre siamo accolti. Assetto armonico del profondo. Da qui, dentro me terra, piena di infinite ragioni, qui dove tutto è indicibile con i gesti della superficie, come da un cuore che non ha battito per la parola, dove fuggire alle ombre mentre le insegui e dove ognuno ha il suo sacro da profanare, come magma che imprigiona a pregarli gli atomi in reticoli cristallini e nascono rocce immacolate. Il passo intanto dice granito, basalto, pomice, fuoco, dice zolfo, pirite e calcite per il blu dorato dei lapislazzuli, specchio dello spazio cosmico. Ogni parola è parte dello scheletro ordinato e regolare dei minerali e chiede un battito nei tetraedri del silicio. L'incarnazione del gigante dilata la temperatura, le pareti terrestri dell'arteria nel cuore arreso alla discontinuità a inizio. Continua è la ricerca del Dio. Questo quel che tu vuoi, invisibile, risorgere in noi. Nell'energia radiante di una risurrezione si scioglie il cammino della marcia nuziale, si moltiplica la forma, esposta me dentro me, affonda te nella luce buia smascherata dall'eros. Amare il pieno di questo inferno sotterraneo è mescolarlo al paradiso fragile dell'idea di vuoto che la natura non comprende. Perché il matto della mia luna batte il suo bastone e gira in tondo, dispone i petali, compone i pollini, prepara l'urlo verticale per me, muta e sorda e cieca, grata al raffreddarsi del magma, affidata. Discioglie la pietra per dissetarci nel segreto del fuoco, fuoco più dinamico dell'aria, e i pensieri ora fertili compongono la scienza della cura. Ho molti umori, molti occhi, molti sguardi, e sono a un passo da te, una distanza infinita. Non ho molto tempo. L'Eterno è una briciola beccata dalle cince, matrioshka all'universo. E questo bagaglio è inutile nella meccanica terrestre. Meglio affidarsi al caso, nato per caso, dal disegno preciso del pianeta. Meglio affidarsi alle parole che nascono perle intorno a un corpo estraneo. Nascono le une nelle altre, nel nostro nido di pietra, sbrilluccicanti come mica. Meglio cadere, scivolare nella propria crepa, stare in un respiro di creta, stare con il respiro ancorato, ritrovare la piega storta, le venature dendritiche brune o nere di limonite, ritrovare un tracciato tatuato. Sarà una geografia perfetta, basta togliere il primo strato di pelle, rimanere a carne viva, trattenere il respiro, lasciarsi andare alla salvezza, alla disperazione calma, in agguato dietro l'opale, e ti salvo, perché io sia salva. Saggezze verso cui andare a occhi chiusi, e non è abbandono, ma futuro, dove mettere al riparo la fede, l'ultimo silenzio, in cui corrono galassie di atomi, voragini di stelle, le fibre acuminate dei metalli. Ascolta, ascolta i sobbalzi del mercurio, il respiro della crosta di silicati, sul magma sanguigno che governa le eruzioni, lungo le ere infilzate dai terremoti, nelle faglie che tengono e cedono la posizione, l'aderenza, perché il mondo resti mondo, mentre la terra attende con la sua incurante pazienza. sbuco breve, come il timavo. La natura è condottiera e non c'è scampo, se non nella perfezione della resa, nella brevità, spogliata all'aria e all'acqua, ogni verità è curva, come nascere alla fine, cominciare la morte in uno splendore d'ossa. Nel caos molecolare delle nafte, ordinato e assoluto, io sento l'altezza delle stelle, lo spazio tra me e il mio pensiero. Perché la morte è una radice, confusa con il silenzio e con il vuoto, come fosse l'eterno moto del pianeta, mentre la vita sotto lei fiamma e brace. E tutto ciò che ci sostiene, ci affonda. Con occhi incendiati muovo il presente alle pietre, a inizio il disordine degli strati superficiali, dove tutto mi guarda e riconosce e specchia, e vado storta, vado lentamente e sono grata al cadere delle polveri, al grasso delle argille, alla persistenza dei fuochi, alle alterazioni delle rocce. Sono grata al colore dei batteri, al ritmo combusto della faglia che mi sale dai piedi, alla cocciutaggine dei prati, ai papaveri troppo grandi per il nostro pianeta. Grata alle viscere luminose in cui cadono gli equilibri segreti, gli incastri delle illusioni del sempre e del mai. E pare che tutto questo non sia niente in confronto all'invisibile che per essere non ha bisogno di forma. Sussulta la terra, sfugge alla gravità e cade per amore, solo per amore di verità al cielo.